fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Sì, diamo ancora spazio a un po' del gruppo di Montisola che è venuto qui a festeggiare i compleanni, perché giustamente la nostra radio è piccolina e quindi non possiamo ospitarli tutti, dobbiamo ospitarli alla spicciolata, come direbbero quelli bravi, ma non ci vogliamo paragonare a quelli bravi. Quello che conta è che abbiamo qui un'altra parte del gruppo, la ragazza è molto infreddolita, quanto sembra, perché vedo che sta cercando conforto nel termosifone umano che si è portata dietro. E allora ragazzi, voi come vi chiamate? Roberta, molto bene. Giulio? Monica. E Sofia, molto bene. Ricordiamo, per dovere di cronaca, giustamente anche il motivo che vi porta qui. Compleanno. Ok, compleanno, sono quattro, giusto? Chi fa gli anni? Ma Lucia, Silvio, Francesca e Damiano. Oh, perfetto. Lui è ancora all'ora solare, lui non l'ha ancora cambiata, quindi domani si rende... Cioè, domani si... ancora traghettato. Esatto, non ha ancora cambiato l'orologio. Domani, lui è ancora sul traghetto, domani mattina si sveglierà di botto. Tanti auguri, se sarà da solo sul letto che festeggia. Esatto, e non capisce il perché di tutto questo. Però insomma è una vita speciale, particolare, ma lui insomma è contento di viverla così. E quindi noi gli siamo comunque vicini e lo sosteniamo in questa dura lotta. Allora, quindi, che rapporto avete con i festeggiati? Amici. No, perché insomma è passato amici intimi. Io sono amica di Lucia Maschini. Pure io, cioè non è che lui. No, perché prima è passato il fratello di una della festeggiata, quindi era per capire. Siamo tutti okay? Amici molto intimi. Ok, allora aiutatemi a capire cosa differenzia, o più che differenza, cosa caratterizza un amico intimo rispetto a un amico punto. Di tutte le cagate che hai in mente in quel momento, si può capire perfettamente. Ok. E puoi parlare schiettamente a lui. Cioè. Ok. Mentre l'amico punto non si può? No, dipende, c'hai un po' di remore nel parlare con lui. Ok. Ah, non proprio tutto. Beh, però se insomma sei un'amica come Francesca, cioè se gli dici veramente tutto, ti mangia le orecchie anche, no? No, le prende bene, perché lei si è definita permalosa in prima persona. Sì, beh, qualche volta sì, però. Vedi? No, invece no, la prende bene. Ok, voi cosa fate nella vita? Comincia Giulio. Lavoro, perfetto. No, sono un'infermiera. Lavoro, infermiera. Ok, sai che hanno scoperto la ruota nel frattempo? Cioè, è arrivato a quel punto. Ah, ok, perfetto. No, perché chiedevo. Magari lui stava ancora lavorando con la pietra e invece stanno già inventando la ruota. E tu? La scusa? Ah, ok, con Francesca. Esatto. Io sto studiando all'università magistrale. Giusti. Sono avanti. Per diventare Perry Mason, no? No, studio matematica. Ah, ma pensavo da avvocati. Però nei weekend faccio la cameriera, quindi. Ah, bene, come un essere umano. Ok, weekend. Come un essere umano, assolutamente. E perché durante la settimana sei una calcolatrice? Cioè cosa? Hai presente, tu prova. Madonna, a fare un'operazione di quelle che fa lei. A fare? Un'operazione matematica di quelle che no, infatti la grande domanda è, cioè, una che sta studiando matematica, a parte, cioè non è chiaramente sminuire, ma è proprio una analisi della realtà, a parte la professoressa e l'insegnante, che sbocchi può avere? Allora, nella ricerca? Sì, di cosa? Allora, ricerca pura di matematica e aiutare. E cosa ricercano i puristi di matematica? Nove formule, ci sono dei problemi irrisolti. Cioè vi tirate delle menate infinite? Ci sono teoremi che sono stati scoperti anche recentemente, problemi irrisolti. Quindi vi sparate delle menate infinite per nulla? Esattamente. Dei trip numerici folgoranti? No, i numeri c'erano una volta, adesso è solo lettere. Calcolo letterale. Calcolo letterale? Cioè? Tipo i bit dei computer, no? Beh, quando come si fanno alle superiori si fanno i polinomi A più B, calcolo le. Ah, in quel senso, ok. Sì, e perché hanno sostituito i numeri? Perché si generalizza. Cioè, tu dalle lettere, applicandoci dei numeri, puoi trovare comunque dei risultati particolari. Però la formula che ti viene data è quella. Ok. Sì, usi le lettere. Beh, come codice, teorema tra virgolette. Di Pitagora, dici. Quadrato del cateto più quadrato dell'altro cateto fa il quadrato dell'ipotenusa. Teorema di Pitagora non è prendi una donna e dileghe lami? Ah, scusa, allora sono rimasto indietro. Ok, se io, sì, ci metto qualsiasi numero al posto del catetro, certo, posto certo, trovo il risultato. Cioè, usi, ok, usi le lettere come, certo, codice, tra virgolette, esatto, come codice per generalizzare. Ok, non vi preoccupate, siamo uscito del sangue dalla bocca, è una normale reazione, no, di fronte, vabbè, dopo, a parole così difficili. Sì. Si può lavorare, no, sì, si viene assunti, ad esempio abbiamo aperto da, cioè, abbiamo aperto, aperto l'università da poco, la specialistica nella parte biologica, praticamente come aiuto nei calcoli per creazione di protesi high tech, tipo, ok, ok, la portata, certo, se certo, una protesi, certo, pacemaker, se le robe, no? Ok, perfetto. E tu hai già un qualcosa in testa, un ruolo? No, a me, a me, no, beh, sì, sì, esatto, nel frattempo abbiamo, noi io abbiamo, vorrei fare l'insegnante, nel frattempo io e il ragazzo abbiamo firmato per quota 100, okay, cioè siamo già andati all'INPS per firmare quota 100. No, io vorrei fare l'insegnante, ah, beh, okay, alla fine di tutto. Ma però superiori, medie, superiori, superiori, quindi ti, puoi tirarti le sfighe addosso, insomma, esattamente. Se no, comunque tante aziende richiedono adesso matematica, certo, perché comunque, cioè, facciamo corsi di programmazione, ormai il futuro. E dove, certo, dove ti è nata la passione per la matematica? Vabbè, cioè, nel senso, che ne so, lui è appassionato di Inter. Beh, di calcio, esatto, lei è appassionato di calcio, lei è appassionata di differirsi le ginocchia. E vedi, non è che io dico le cose a caso, cioè, veramente, vedi, è per quello, è appassionata di riferirsi alle ginocchia. E come mai la passione per la matematica? È sempre piaciuta. Ah, appunto, cioè, niente, mi piaceva le medie, okay, mi piaceva le superiori, sono andata avanti, okay, con okay. Ma anche, come dire, gioco, carte, no, quello no, non c'entra nulla, no? Cioè, sì, ti, comunque ti piace, scacchi, ti piace lì, quel mondo lì, rimane dentro. Sì, sì, beh, quelle lì, ci sono anche lì dei teoremi. Ma lui sta già facendo i soldi, nel frattempo, cioè, sta già pensando come fare i soldi. Rayman, quelle cose lì. Sta già pensando come utilizzarti e come sfruttarti per fare soldi. Non ha capito niente, sì, sì, no, lei non ha capito niente. Attenzione, c'è la Francesca, deve dire cose importanti. Ha detto che sta dicendo che hanno inventato i giubbini nel frattempo. Cioè, hanno è passato qua i giubbini. Ah, ok, no. Portalo anche a me, ok. Pensa che io ho capito che è passato così tanto tempo da quando ha spiegato la matematica che hanno inventato i giubbini che non c'erano e li hanno. Uno li ha inventati. Esatto, uno li ha inventati. Ok, bene, quindi abbiamo questa. Voi che passioni avete? Ad esempio, cioè tu la tua non dirla perché è una super. Non è che ho solo la passione della matematica. No, chiaro, però capisci. No, capisci che è particolare. È per quello che ho voluto approfondire, perché è affascinante e anche molto particolare. Ecco, questo era quanto. Ragazzi, ancora ci parlano il linguaggio dei segni, perché sono, insomma, ancora l'uomo di Neanderthal, ancora non hanno inventato, a proposito di numeri, esatto, il linguaggio, insomma, loro, il volgare, ancora non sanno cosa sia. E voi quali sono le vostre passioni invece? Camminare e farti male. Ma piante, la cosa stai dicendo? E farti male, giustamente, cioè, nel frattempo, mentre cammini ti fai del male, cioè, se tu non vai a casa con un ginocchio sbucciato, non è con te, cioè, proprio non godi della camminata. Bene, è una vita interessante anche la tua, vorrei proprio uscire tantissimo con voi per capire. Questa è. E tu invece? Pallavolo, hai capito? Ma ancora adesso giochi? No, non gioco più perché mi sono buttato un po'. Perché, sai perché? Perché sei sua amica. E quindi. No, è per quello, perché giustamente lei si ferisce e tu ti rompi. Cioè, è proprio un'associazione di... Sì, sì, sì, esatto. E lei, non lo sapete, ma ha una tabella Excel in cui toglie le ossa che vi... Cioè, allora, sono 216, ok, lei sa, 215, 214... No, 216, sono 200... Ha sbagliato il libro di Francesco. No, dovrebbero, almeno, se non ne hanno inventate di nuove nel frattempo, e lui lo capirà nel 3025, che hanno inventato le ossa, quindi non svegliamoli il finale, perché sennò gli roviniamo la vita. Dicevo, se non hanno cambiato, dovrebbero essere 216, in teoria, no? Vabbè, insomma, non chiediamo la matematica. Vabbè, comunque sia, lei è lì che spunta le ossa che vi mancano, e a zero, non so cosa succederà, insomma, tutto un premio suo. No, no, non è detto, magari sei un... Sei un po' floscia, un po' così, però magari ce la fai ancora. Sì, sei un po' gelatina, un po' gelatinosa. Beh, magari, non so, magari finisci su una bruschetta, come polpa di pomodoro, che ne so. Beh, non è... o no, tu non finiresti su una bruschetta? Vedi, vedi che lui è entusiasta di finire una bruschetta, eh? Il salpare, l'olio. Lei l'aglio. Adesso si menano per la ricetta della bruschetta. E la, la tua passione invece? Calcio. Ma giocato o visto? Non ancora. Beh, insomma, giustamente, insomma, invece di star dietro a tutto. C'è dell'affetto, vero? Grandissimo, sì, sì, c'è, c'è molto affetto, sono proprio... Sì, sì, sono, esatto, vedo proprio i flussi di energia positiva e affettuosa che girano nella stanza. Lei intanto sta risolvendo dei problemi e dei teoremi, cioè, mentre voi parlate, pensa... Esatto, cioè, voi credete che vi stia ascoltando, ma in realtà sta inventando problemi nella sua testa e sta mettendo dei numeri a caso insieme per fare delle somme. Delle somme casuali e vedere cosa succede. E perfetto. E volete fare un appello, un saluto ai vostri amici festeggiati? Festeggiati? Auguri. Auguri. Auguri. Vuoi farglielo in numeri? No. Preferisci. Cioè, diciamo Orso, non ti trovi, ti trovi più comodo. Ritrovare Lucia, che non sappiamo dove è andata a finire, che è da un'ora che è abbiamo perso una festeggiata. Una festeggiata. È andata in boscata. È tornata, mi hanno detto che è tornata. Okay, la occhio. È tornata, e sa già che parlate male di lei. È tornata, quindi bene, sono anche notizie positive ritrovare Lucia, perché insomma è... anche perché il 13 dicembre serve, quindi è meglio trovarla, e, insomma, che magari può, essere, può tornare utile. Santa Lucia, Santa Lucia. Siamo tutti in ragazza. Ah sì? Ma sei stata cattiva allora, evidentemente. Ah ok, non sei stata cattiva. È particolare, sì, sì, particolare. È che lei sta, è che lei sta girando per Montisola alla ricerca delle ossa che ha perso. È per quello che è distratta. La letterina di Santa Lucia. Le perde, Lucia, le perde. Sono stata no, buona, mi piacerebbe ricevere no, è che, dietro le ossa che ho perso. È che è così concentrata a cercarle che le passa il 13 dicembre. Cioè mentre gli altri festeggiano e scarta regali, lei è lì che guarda e... No, fuori da Montisola, ecco, fuori, perché fuori da Montisola, perfetto, quindi deve anche chiedere autorizzazione a un'altra provincia. Fratello, pagare la tassa di sbarco. Per cercare le proprie ossa. Ah, come pompieri, non paga niente. Beh, discutono tra di loro. Sì, sì, no, c'è una grande discussione, la ragazza è tornata a sanguinare, quindi adesso dobbiamo un attimo fermare l'emorragia, e che adesso ci penserà la nostra esatto, Dottor House qua a risolvere tutti i problemi del mondo. Beh, insomma, già, già qualcosa, no? Io non so neanche come si dica Garda, per dire, quindi insomma, giusto, l'ho anche detto giusto, è incredibile, grandi sorprese della vita. E allora ragazzi, è stato bello ospitare voi, ospitare anche tutti i vostri amici, mi unisco ancora agli auguri per i festeggiati e grazie per essere stati con noi. Grazie. A presto e buonanotte. Ciao!